Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. C'è un leitmotiv che tanti film di fantascienza, ma anche moltissimi videogiochi, ci propongono quando si tratta di navigare una mappa digitale che rappresenta, per esempio, un edificio, un'astronave, piuttosto che magari tutta la galassia. Ecco, di solito in questi casi l'oggetto appare sotto forma tridimensionale, una sorta di miniatura digitale in cui si può zoomare, di cui si possono selezionare dei dettagli per ricavarne informazioni e così via. Insomma, nessuno ha mai visto Luke Skywalker che sfoglia un grosso tomo con su l'Atlante stellare. Di solito la mappa in questi casi è un ologramma scintillante sospeso per aria di grande effetto. Ma a parte appunto gli effetti speciali, è evidente che questo tipo di rappresentazioni 3D funzionano, che sono molto intuitive, che hanno una immediatezza impossibile da ottenere con delle mappe bidimensionali. Le capiamo al volo queste immagini 3D e non a caso nel cinema funzionano molto bene. Ebbene, a Trento stanno facendo qualcosa di simile con la mappa della città. L'ologramma non c'è, ma quasi tutto il resto sì. Ce ne parla Federico Pedrocchi. Ascoltiamo. Sono qua con Giuseppe Conti. Buonasera Conti. Buonasera. Davanti a una videata bella grande, voi non la potete vedere perché ovviamente siamo una radio, però ci sono tante case, casettine però molto essenziali, sono dei cubotti colorati. Questa è la città di Trento. Giuseppe Conti è di Grafitec, che è una fondazione che nell'area trentina, che in questo momento si sta molto muovendo sia sui temi Smart City che in generale sull'informatica, ha progettato con il suo gruppo questo, che potrebbe essere un disegnino, quelle cose che vediamo semplificate in 3D delle mappe cittadine. Invece lì i palazzi sono un po' semplificati, ma in realtà sono esattamente tutte le case di Trento. Esatto, si tratta di un sistema che raccoglie i dati dai vari servizi delle amministrazioni, li raccoglie e costruisce in maniera automatica un modello 3D. Gli edifici che vediamo non sono dei disegni, ma sono delle rappresentazioni logiche degli edifici in 3D, da cui si possono ricavare tutte le informazioni di interesse, per esempio informazioni di tipo catastale, informazioni di tipo energetico, tutto quanto riesce a essere aggregato all'interno di questo contenitore 3D. Il mondo 3D diventa un contenitore per accedere a tutte le basi dati che sono disponibili. Infatti, se clicchiamo su uno qualunque di questi edifici, viene fuori tutto un insieme di dati, una radiografia di questo edificio. Tutti questi dati da dove arrivano? Possono arrivare da dati di amministrazione, da database, ma possono anche arrivare da cittadini. I cittadini hanno un ruolo fondamentale perché contribuiscono ad arricchire la base dei dati con informazioni in tempo reale. Non è possibile infrastrutturare con decine di migliaia di sensori una città per monitorarne il comportamento, è possibile invece avere decine di migliaia di utenti che in tempo reale raccolgono per noi informazioni qualificate. Lo fanno o in maniera passiva se lo strumento tipo smartphone registra delle informazioni, o lo fanno in maniera attiva selezionando qualche cosa, dandoci un feedback su qualche cosa di specifico che poi viene digerita e aggregata all'interno del portale 3D. Infatti qui adesso stiamo vedendo una cosa curiosa, perché c'è una strada di Trento sulla quale sembrano, no, ci sono, le vediamo, sono delle sfere colorate in modi diversi lungo tutta la strada. Queste sfere qui raccontano i suoni. Ecco, in questo caso i cittadini stanno utilizzando i loro smartphone per mappare, per raccogliere informazioni relative all'inquinamento acustico, e in questo caso l'amministrazione raccoglie queste informazioni e le aggrega per fare delle mappe acustiche a grande granularità nelle varie fasi del giorno, e quindi si possono fare anche degli studi per capire come l'inquinamento acustico evolva nel corso della giornata, per esempio. Fra i cittadini ci sono disabili, ci sono anziani, ci sono bambini, c'è un sacco di gente che periodicamente può avere una gamba rotta, una caviglia malmessa, un sacco di pacchi da portare. Questa mappa dice anche come ci si può muovere al meglio avendo problemi di questo genere nella città? Esatto, avendo il modello 3D dell'edificio in dettaglio, l'edificio e del contesto urbano che ci sta attorno, possiamo fare dei percorsi che sono customizzati per le esigenze di ciascun cittadino, normodotato o non, ma ciascuno di noi poi è non normodotato in specifiche circostanze. Se io vado con i miei bimbi e con il passeggino, certamente voglio trovare dei percorsi che siano liberi da barriere. Quello che fa questo portale è instradare, creare dei percorsi che sono customizzati per i requisiti di ciascuno di noi. In questo caso, per esempio, il disabile potrà avere dei percorsi che non sono soggetti a barriere architettoniche. Un ultimo dato: tutte queste informazioni che possono arrivare dai cittadini in qualche modo dovrebbero essere un po' controllate, credo. Ecco, lì si apre chiaramente, scoperchiamo il vaso di Pandora. Nel momento in cui chiediamo informazioni dei cittadini, dobbiamo garantire dal punto di vista tecnologico che ci sia una buona tutela della privacy. Quindi il cittadino sarà consapevole che alcune delle informazioni verranno erogate, ma il sistema deve garantire che non tutte le informazioni siano erogate e quindi soltanto quelle che poi sono effettivamente utili per il servizio, garantendone privacy. Lì, per vedere come stanno davvero le cose, basta anche un po' incrociare i dati e vedere le coincidenze tra quello che in una certa strada la gran parte dei cittadini invia e vedere se c'è qualche dato anomalo che forse magari è da scartare. Esatto, lì il sistema poi fa dei meccanismi di controllo incrociato per cui valida i dati dei cittadini in funzione anche dei dati ricevuti nel contesto, aggregando i livelli di rappresentatività e di veridicità dei vari risultati. In particolar modo ciascuno degli utenti diventerà tanto più affidabile quanto più la propria informazione è stata qualificata come affidabile attraverso un controllo incrociato in pratica con le altre basi di dati. E qui concludo io, questo è un modo anche di far partecipare i cittadini in modo molto forte, insomma, molto, molto sensibile, molto empatico allo sviluppo della propria città. Bene, grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti per essere rimasti qui con noi. Vi ricordo la mail smartcity@radio24.it. Vi ricordo anche che dalla pagina di Smart City di Radio 24 potete scaricare le trasmissioni in podcast. Buona serata a tutti, appuntamento a domani.